Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi dalla radio parliamo di televisione, di questo oggetto amato ed odiato, considerato da molti come lo strumento invincibile per l'ascesa al potere di Silvio Berlusconi. Insomma, una realtà che in pochi altri paesi è al centro dell'attenzione come in Italia. E a questo tema ci richiamano Franco De Benedetti e Antonio Pilati, che ripercorrono la funzione, la posizione centrale di questo, come lo chiamiamo, elettrodomestico, nel libro La guerra dei 30 anni, politica e televisione in Italia 1975-2008, il libro pubblicato da Einaudi, 304 pagine, 19 euro. Pilati e De Benedetti formano, per così dire, una strana coppia, perché De Benedetti è stato senatore del centro-sinistra, di cultura liberal-liberista, mentre Pilati è stato piuttosto vicino alle posizioni di Silvio Berlusconi e oggi è componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Si ritrovano i due in questa tesi che il sistema televisivo italiano è una delle anomalie che caratterizzano il nostro paese, un'anomalia della quale però la televisione non è la causa, ma è l'espressione forse più significativa. E dunque, concludono i due autori, la demonizzazione che da parte del centro-sinistra c'è stata nei confronti della televisione in generale, poi in particolare della televisione privata e poi naturalmente di quella di Berlusconi nello specifico, questa demonizzazione, diceva, rischia di perdere di vista le autentiche debolezze del sistema italiano. E infatti scrive De Benedetti come tutte le guerre e le battaglie che ha condotto il centro-sinistra non sono stati sufficienti per dare vita ad alleanze stabili con cui il centro-sinistra potesse governare, ma anche ad opposizioni con cui preparare un'alternativa, proprio a causa del fissarsi in qualche misura su questo tema della di berlusconismo televisivo. Ma di questo tema parliamo con uno degli autori. Buongiorno a Franco De Benedetti. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Senatore De Benedetti, in questo libro scritto con Antonio Pilati, voi dite che la questione della televisione in Italia è stato uno degli effetti delle anomalie italiane, non una delle cause, come spesso la si dipinge. Ecco, quali sono queste anomalie del sistema italiano? Le anomalie del sistema italiano non possono essere viste solo guardando agli ultimi tempi, cioè si dice sempre che Berlusconi è un'anomalia, perché in effetti il fatto che un padrone di metà del mondo televisivo in tre mesi riesca a mettere su un partito, vincere le elezioni, poi presentarsi a tutte le elezioni successive che si sono fatte in 15 anni per tre volte vincerle e diventare capo del governo, sicuramente è una cosa che non si è mai vista nel panorama europeo e raramente nel panorama mondiale. Da questo punto di vista è un'anomalia per alcuni e comunque un'eccezione. Allora, la domanda che mi sono posto è perché? Perché è capitato in Italia questa cosa? E io ho voluto risalire indietro all'inizio, quando sono incominciate le trasmissioni non ufficiali, cioè le trasmissioni private, la famosa trasmissione di Telebiella. E da allora gli interventi che sono stati fatti contro la televisione privata. Un'anomalia italiana è il fatto che mentre gli altri paesi hanno trovato, che pure hanno, paesi europei, che pure hanno una televisione pubblica, hanno trovato il modo di creare uno spazio, di assegnare uno spazio alla televisione privata, in Italia gli si è fatta la guerra. Un assalto al suolo è stato detto, letteralmente tenendo conto che il primo assalto è stato alle televisioni di a cavo. Questa per esempio è sicuramente un'anomalia italiana e sicuramente questo ha a che fare con l'anomalia Berlusconi. Noi abbiamo avuto la prima legge, l'abbiamo avuta nel 1990 con la legge Mammì e certamente gli ascoltatori ricorderanno che l'approvazione di quella legge è stata contrassegnata da uno dei fatti più clamorosi nella nostra vita parlamentare, perché il governo era di Andreotti VI e i ministri democristiani di sinistra, DC di sinistra, hanno dato contemporaneamente le dimissioni al momento in cui è stata approvata questa legge. Ecco, quindi di anomalie sono tante, ma se vogliamo ce n'è poi ancora una più clamorosa su cui si innesta questo, perché evidentemente questo porta a considerare l'antiberlusconismo come una continuazione dell'anticrazismo, per meglio dire l'anticrazismo come l'antesignano dell'antiberlusconismo. E allora è questo perché? Ecco, qui ci sono, insomma, in questo modo si ripercorre un po' tutta la storia politica italiana degli ultimi 30 anni. E in questo senso lei scrive che, voi scrivete anzi, che l'antiberlusconismo televisivo ha in qualche misura tradito il centrosinistra, perché bloccatosi su questa specie di pregiudiziale, il centrosinistra non ha saputo elaborare delle politiche convincenti per l'elettorato. Sicuramente è vero, è quello che diciamo, però andando un po' più a guardare dentro questo ammasso che definiamo come genericamente sinistra, perché non è tutto uguale. Allora, se andiamo a vedere, e soprattutto prima che per la famosa discesa in campo di Berlusconi, c'è il rapporto con la televisione privata, ma la televisione privata è stata in qualche modo sempre un po' guardata con disprezzo o con dall'alto in basso dalle classi dirigenti dei vari paesi, e questo risale alla critica che la scuola di Francoforte, Adorno, Horkheimer e in qualche misura anche Marcuse hanno avuto verso l'industria culturale. Però da noi, però questi erano gli anni 30, da noi è continuato nel 68 e poi dopo, e poi è diventato, da un fatto culturale è diventato un fatto politico, cioè non si può, in altre parole, disconoscere che in Italia c'è un filone all'interno della sinistra, direi al centro della sinistra, che ha sempre considerato che la soluzione italiana, della governabilità italiana, fosse un governo degli ottimati. Dopo la vittoria di Berlusconi, ricordiamo che cosa lo stupore attonito di Norberto Bobbio, che nel 94, quando Berlusconi ha vinto per la prima volta le elezioni, si domanda come è potuto accadere tutto questo. Ecco, questo poi è continuato, questa incapacità di comprendere la richiesta di modernità che veniva dal paese e che in qualche modo la televisione privata ha soddisfatto. Questo è continuato poi con i girotondi e in qualche modo gli ultimi propaggini di questo sono la campagna moralistica di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi. Ma lei che c'è stato dentro per tanti anni nel centrosinistra come senatore, quindi in posizione di responsabilità, mi pare che su questo non abbia scalfito le convinzioni diffuse nei suoi colleghi. Come mai sono rimasti così pervicacemente legati a queste idee che lei adesso ci sta illustrando? Ma vede, a me ha stupito abbastanza giorni fa, presentando questo libro a Roma, c'era Massimo D'Alema e Maurizio Sacconi, e Massimo D'Alema arriva a dire: beh, l'unica soluzione è per evitare che il padrone delle televisioni, delle televisioni private, vincendo le elezioni, diventi responsabile e abbia nelle sue mani la quasi totalità dell'emittenza televisiva, essendo anche responsabile della RAI. E quindi dice: ah, bello bello, viene fuori di, io l'avevo detto, bisogna privatizzare la RAI. Però io voglio dire, queste cose io non mi ricordo quando io, durante gli anni dell'Ulivo, quando cioè l'Ulivo aveva la maggioranza ed era al governo D'Alema e poi nel primo e secondo governo D'Alema e poi Amato, in fondo abbiamo privatizzato i telefoni, per quale motivo non si poteva privatizzare la RAI? Si era perfino fatto un referendum. Questo prima, quindi, e lui bello bello viene fuori lì e l'avevo detto, avevo chiamato Celli e gli avevo detto: scusa, privatizza. Ecco, mi sembra che sia un po', io a quell'epoca in articoli sul Sole, convegni, anche delle proposte di legge, dicendo: guardate che se poi perdiamo, e lui prende tutto, adesso che abbiamo il potere vendiamo sta Rai, facciamo qualcosa. Invece questo è stato bocciato chiaramente dai sindacati interni della Rai, e quindi è stato bocciato dalla stessa centro-sinistra. La sinistra non ha nessuna voglia di vendere la Rai, non ha mai avuto nessuna voglia di vendere la Rai, ma neanche di vendere un pezzetto, non diciamo di venderla tutta, di vendere una rete, niente, non ha voluto venderla. Beh, la sinistra, direi tutto il ceto politico, non ha nessuna voglia di vendere. Certamente, questo è vero, tutto il ceto politico non voglio dire, perché la RAI è dei partiti e quindi, come dice un collaboratore del Sole, Giacomo Vaciago, che dice nulla è così difficile da privatizzare come ciò che è già privato. E quindi la RAI è di proprietà dei partiti e quindi non si vede perché i partiti dovrebbero votare di perdere il controllo di qualche cosa che hanno come se ne fossero padroni realmente, come se ne avessero la titolarità, il titolo di proprietà, ecco, che ne hanno di fatto la proprietà. C'è da divertirsi di più con le radio, lì c'è più pluralismo. Con le radio effettivamente c'è sempre stato più pluralismo, perché fin dall'inizio le radio private sono state le grandi antesignane della televisione privata, e questo è rimasto, e effettivamente anche oggi il panorama delle radio è un panorama con grande pluralismo e con grande, a volte su alcune, anche una grande vivacità. Bene, speriamo di averlo confermato anche oggi. Grazie a Franco De Benedetti. La ringrazio, direttore. Probabilmente per le nuove generazioni parlare di televisione è come parlare di un oggetto assolutamente obsoleto. I giovani di oggi utilizzano altri strumenti. E per capire questa generazione vi segnalo il libro Nati con la rete, la prima generazione cresciuta su internet, istruzioni per l'uso, di John Palfrey e Urs Gasser. Il primo è uno studioso di Harvard, il secondo dell'Università di San Gallo. Il libro è pubblicato da Rizzoli, 492 pagine, 12,50 €, ed è stato tradotto da Daniela Caggiati, Laura Cogni e Giacomo Stella. I nati dopo l'80, secondo gli autori, sono nativi digitali, così li definiscono. Sono persone avvezze, cioè, alle tecnologie digitali e sociali che si diffusero appunto a partire da quell'anno. E sono dei ragazzi, in questo senso, completamente diversi. Sentite perché. Questi ragazzi sono diversi. Studiano, lavorano, scrivono e interagiscono tra loro diversamente da come facevate voi da bambini. Leggono blog invece di giornali. Spesso si conoscono su internet prima ancora che di persona. Probabilmente non sanno neanche come è fatta una tessera della biblioteca, ed è ancora più difficile che ne possiedano una. E se ce l'hanno, è facile che non l'abbiano mai usata. Prendono la loro musica da internet, spesso in modo illegale, senza pagare, anziché comprarla nei negozi di dischi. Sono molto più propensi a mandare un messaggio che a prendere la cornetta per darsi un appuntamento pomeridiano. Adottano cuccioli virtuali e stringono amicizie grazie a neopets invece che animali in carne e ossa. Sono legati tra loro da una cultura comune. Gli aspetti principali delle loro vite, interazioni sociali, amicizie, attività civiche, sono mediati da tecnologie digitali e non hanno mai conosciuto una maniera diversa di vivere. E allora questo libro ci aiuta a capire questa generazione, a conoscere come parlano questi ragazzi, che qualità sviluppano, che vizi alimentano, che caratteristiche coltivano. Naturalmente gli strumenti che hanno a disposizione danno loro grandi poteri e grandi prospettive, ma anche possibili abusi, rischi, confusioni. Perciò, concludono i due autori, tutto è ancora confuso. Ci troviamo in un momento storico cruciale e naturalmente questo, aggiungo io, porta sempre a dei grandi rischi e delle grandi incertezze. Questo libro ci aiuta a individuare. Un libro tira l'altro. E adesso passiamo allo spettacolo con alcuni grandi protagonisti della scena italiana e vi divertirete a riconoscere le loro voci. Sentite la prima. Tu, ragazzina, tu sì, cerca di spiegarmi, senza far fatica, come puoi. Perché ti piacciono tanto i Beatles? Ha veduto sui giornali? Tutti ammazzano figlioli. Almeno dove ci sono i Beatles siamo protetti dalla polizia. Questa era Franca Valeri, la grande attrice milanese, di cui la Tartaruga Edizioni pubblica Di tanti palpiti, divertimenti musicali, 166 pagine, 16 euro. Un libro a tratti esilarante che associa a storici sketch della Valeri con la signora Ciccione o la signorina Snob coltissimi intermezzi musicali su opere e figure come Verdi e Bellini. Un libro che vuole essere un inno al rapporto tra parole e musica, fatto, scrive Franco Valeri, di piccoli brandelli di un eterno contestarsi fra queste due miracolose strade della nostra definizione. La parola, servo generoso e insostituibile, la musica, accessorio sublime e voluttuario. Sarebbe un delitto avventurarsi a leggere noi le interpretazioni storiche di Franca Valeri. E allora vi propongo dall'introduzione al libro di Patrizia Zappamulas la spiegazione della scelta del nome d'arte della Franca Valeri, che di suo si chiama Franca Norsa. È un pomeriggio di ottobre del 1947 in Largo Cairoli a Milano. C'è una ragazza che cammina avanti e indietro sul marciapiede davanti al Teatro Olimpia. I suoi occhi scurissimi, pieni di spirito, stanno cercando qualcosa. Sta per debuttare in una piccola parte e l'amministratore di compagnia le ha dato una scadenza. Deve decidere entro un'ora che nome mettere sul manifesto che sta per andare in tipografia. Non può usare quello di famiglia. Suo padre è stato perentorio. Non verrà mai scritto Norsa sul cartellone di un teatro. È preoccupato per lei e con quel divieto sta cercando di proteggerla, forse di dissuaderla da quella carriera. Ma Franca non ha dubbi su quello che vuole fare. Deve trovare un altro nome. C'è il monumento equestre al centro della piazza. Dal marciapiede può vedere la schiena del cavaliere e le chiappe del cavallo. «Franca Garibaldi?» esclama con la voce squillante la R moscia. Scuote la testa. «Fa troppo risorgimento!» A destra il castello sforzesco è un solido punto fermo piantato nel terreno. «Franca Sforza?» Ci pensa su un momento. Riscuote la testa. «Fa troppo medioevo puebellico e poi si sforzano solo i deficienti!» È il suo gioco preferito fare quella voce da signorina snob, quel personaggio di svampita geniale. Ora che ci pensa, anche la sua signorina snob avrebbe bisogno di un nome. Chissà se ce l'avrà mai. Comunque Franca deve trovarne subito uno per se stessa. In quel momento svolta dall'angolo di Foro Bonaparte Silvana Mauri, la sua amica migliore. Le ragazze si abbracciano sotto quel cielo urbano ancora tiepido. Silvana ha un libro in tasca, una raccolta di poesie. «Che cosa leggi?» «Paul Valéry!» Quello sì che è un bel nome. E veniamo adesso al secondo nostro protagonista. Sorella Acqua nei dì lontani entrò nei turpi bagni pagani, come fanciulla che il mal non vede e in fallo pone l'incauto piede. All'orge impure fu mescolata, d'essenzi aromi contaminata, fiacò cervelli, muscoli e menti, carezzò corpi nudi e indecenti. Questo è un altro mostro sacro del teatro italiano, Paolo Poli, che quest'anno fra l'altro compie 80 anni, auguri, e pubblica Siamo tutte delle gran bugiarde, una conversazione con Giovanni Pannacci pubblicato da Giulio Perrone Editore, 96 pagine, 11 euro. È un lungo colloquio questo per ricostruire la carriera, ma soprattutto far emergere la scintillante intelligenza e ironia di un protagonista del teatro italiano di cui ha conosciuto tutti i grandi suoi coetanei. Ma dicevo, non c'è soltanto la biografia, ci sono anche tante altre osservazioni, per esempio questa che vi propongo sui libri e le letture. Anche in letteratura oggi ci sono le finte nipotine di Joyce che scrivono le illuminazioni. Vanno avanti e indietro col racconto, ma è difficile se non sei Joyce. Pensa al monologo finale di Molly, senza punteggiatura, che ricorda quasi certi discorsi di Pinocchio. Ce ne sono almeno tre, in collodi, di monologhi joyciani. La cosa si fa interessante. Pinocchio joyciano? Certo, quando Pinocchio spiega al suo babbo come ha fatto a bruciarsi i piedi, oppure quando rincontra il suo babbo nel ventre della balena, o quando racconta alla fata le sue disavventure. Fa dei discorsi bellissimi, tutti arrotolati, sgrammaticati, perché Pinocchio non ha studiato. Collodi era un genio, perfettamente consapevole di aver scritto un capolavoro. Pensa ad esempio alla scena in cui i ragazzi fanno alla guerra con i libri sulla riva del mare e un compagno di Pinocchio prende il vocabolario in testa e cade svenuto, come morto. «Eugenio, Eugenio!» Lì, scrive Collodi, cominciarono a tirare fuori tutti i minuzzoli, i giannettini e i racconti di bontà di Pietro Thouars. Quindi Collodi capiva di aver scritto un libro straordinario, mentre eran brutti i giannettini e i minuzzoli e lo scimmiottino color di rosa. Pinocchio è stato un mio livre de chevet perché era in questa bella lingua toscana. Un altro dei miei libri preferiti è L'educazione sentimentale, perché parla della rivoluzione del 48, delle scelte che si devono fare da giovani, dell'amore impossibile per questa donna già matura che quando da ultimo si accinge ad andare a letto si scioglie le trecce e sono diventate bianche. Come dice il Foscolo, quelle trecce che tu con tanta cura conservi, vedi, vedi, ti biancheggiano fra le dita. E adesso la terza voce, questa femminile. Lo sa che io per star dietro a mio figlio, sì, sono arrivata al punto di andare alle manifestazioni degli estremisti, pensino del PCI. E perché? Non ce la facevo stare a casa a aspettare che me lo portassero lì belle che morto. Andavo, mi mettevo 10 passi dal figlio, vigilavo. E che tu mica puoi andare a quelle manifestazioni lì come andare alle passeggiate, no! Devi partecipare, devi gridare, certe gomitate nello stomaco, grida compagna, grido, si fa presto a dire grido, finché c'era da gridare degli slogan contro i fascisti lì ero nella regola, col cuore, ma quando padre a me del PC mi toccava gridare degli slogan contro la DC, mi sentivo male. L'ultima voce è quella di Franca Rame, di lei esce Una vita all'improvviso, scritto con Dario Fo e pubblicato da Guanda, 320 pagine, 17,50 €. Una vita scritta sotto forma di un copione con tanto di scene e bozzetti disegnati da Dario Fo, il quale un giorno scopre alcune buste in cui la moglie aveva raccolto degli appunti sulla propria vita e convince appunto Franca Rame a pubblicarli, a metterli in ordine, a sistemarli per farne un'opera compiuta su una carriera comune ricca di soddisfazione, risultati, ma anche polemiche e prese di posizione che hanno fatto naturalmente molto discutere. Insomma, nel libro ritroviamo una coppia e due carriere intrecciate, tutt'altro che pacifiche, che possiamo qui rileggere dal di dentro. Sentiamo per esempio dal libro come si formò questa coppia all'indomani della guerra, più o meno negli stessi mesi in cui Franca Valeri decideva di assumere il suo nome d'arte. Sono sempre a Milano e mi trovo a recitare al Cinema Teatro Colosseo nella compagnia Sorelle Nava e Franco Parenti, un'equipe tradizionale, un ambiente così lontano da quello in cui avevo vissuto fino ad allora. Vedo anche i compagni di lavoro, quelli pieni di spocchia e quelli civili e garbati. Tra questi c'è anche Dario. Ma che ci fa qui con noi quel lungagnone dinoccolato e sorridente? So che ha piantato il Politecnico e perfino un lavoro sicuro per fare sto mestiere da commediante. Lo intravedevo ogni tanto, che se ne stava spesso in disparte, quasi a evitare le smancerie e discorsi così poveri di intelligenza sparsi sul palcoscenico e fra le quinte. Questa era la dote che apprezzavo maggiormente in lui, la riservatezza. Sono stata io a invitarlo dopo le prove a mangiare qualcosa in una trattoria la prima volta. Dario sembrava non accettare volentieri quell'invito. Poi, giacché io insistevo, mi svelò la ragione della sua reticenza. «Non ho un soldo», mi disse. «Per potermi liberare dal lavoro e venire alle prove, ho dovuto licenziarmi dallo studio di architettura dove sviluppavo progetti». E io allegra risposi. «Mi fa piacere. Adoro nutrire randagi, gatti abbandonati e disoccupati affamati». Franca Valeri e Franca Rame ritroviamo assieme a Natalia Ginsburg nel libro di Laura Peia Strategie del comico, è pubblicato da Lettere, 262 pagine, 22 €. Il libro presenta 3 esperienze di teatro delle quali l'autrice cerca un filo conduttore e che viene riconosciuto nella ricerca di una doppia strategia del comico, intesa come strategia con cui viene suscitato il riso, con cui si raggiunge come obiettivo la comicità da un lato, e strategia dall'altro in cui la comicità viene utilizzata come mezzo per raggiungere altri obiettivi. E allora vediamo quali sono gli obiettivi delle 3 autrici, Franca Valeri e le sue donne che ridono di un cambiamento, ma per favorire questo stesso cambiamento, Franca Rame, che ha un atteggiamento decisamente rivoluzionario, e infine Natalia Ginsburg, che vuole operare in maniera indiretta, come un cavallo di Troia dalla parvenza innocua, scrive l'autrice, che al suo interno nasconde un potenziale altamente pericoloso. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di spettacolo e allora eccovi un protagonista della musica d'oggi, Edoardo Bennato. Viva la mamma! Viva la mamma, libro con CD pubblicato da Gallucci, i disegni sono di Cecco Mariniello, costa 16,50 euro e troviamo appunto la storia e la musica di Bennato. E con questo ringrazio Daniele Casagrande, Vittorio Mussini in redazione, Valeria Bernardi in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.